Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti amici del basket, è finalmente il giorno di tornare, di andare seriamente sull'argomento che forse mi sta più a cuore, cioè quello azzurro. Ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao amici sportivi. Allora, una storia così lunga e così importante come quella di Carlo Recalcati sulla panchina della Nazionale non poteva forse, a parer mio, finire diversamente, cioè in modo un po' polemico, un po' doloroso. Carlo Recalcati oggi è qui con noi. Ciao Charlie, grazie. Ciao, ciao a tutti, ciao Dan. Ciao Charlie. 800-24-0024 è un numero verde naturalmente per voi ascoltatori. La prima domanda la faccio io, poi passo la palla al coach. Charlie, è finita come sappiamo. Tu saresti rimasto, ti faccio la domanda più banale possibile, perché saresti rimasto lì? Ma io sarei rimasto perché ho sempre visto la Nazionale, probabilmente erroneamente, però come la mia squadra. Io ho avuto due realtà che mi hanno accompagnato prevalentemente nella mia carriera di giocatore e allenatore, che sono stati Cantù e la Nazionale. Cantù per 23 anni, la Nazionale per 18 anni. E quando tu stai per tanto tempo in una realtà, poi dopo perdi di vista quella che è l'essenza esclusiva del professionista. E quindi entrano in gioco i sentimenti. E quando entrano in gioco i sentimenti, probabilmente ti fanno vedere le cose in modo diverso, e soprattutto non cogli il momento in cui per convenienza dovresti andartene. Perché poi il professionismo è questo, no? Non so, vinco a Varese e il giorno dopo vado via da Varese. Questo vuol dire essere professionisti freddi e calcolatori. Con la Nazionale obiettivamente non è così. Io per la Nazionale l'ho fatto e avrei continuato a fare, tentando di fare quello che è nelle mie possibilità per aiutarla. Poi ti chiederò anche cosa avresti fatto nel caso in cui fossi rimasto lì. Coach! Well, innanzitutto capisco Recalcati perfettamente, perché anch'io ho allenato la Nazionale, pur non essendo la mia Nazionale, ho allenato il Cile, e posso dire che non c'è... è un attaccamento, come ha detto Recalcati, più forte di quello che tu senti generalmente, cioè proprio perché è una squadra nazionale e ti danno tutto. Questa è l'unica spiegazione che posso dare, è che quando ho allenato il Cile, cioè proprio mi ha riempito il cuore allenarle. Forse non mi sto spiegando perfettamente bene, però è una cosa che è palpabile, proprio lo senti. Quindi posso immaginare, a maggior ragione, uno che allena la propria nazionale, la propria squadra. Charlie Italiano allena la squadra italiana, cioè più di così non riesco a capire una cosa più commovente e emozionante di quello, assolutamente no. Coach, ti faccio una domanda difficile. Secondo te la storia di Charlie Recalcati con la Nazionale, visti i risultati, era finita oppure no? Well, questo non lo so dire, cioè proprio Charlie voleva restare, cioè tutti noi nell'ambiente cestistico, tutti volevamo vedere la cosa finire bene, questa storia. Uh-huh. Rimane, non rimane, assolutamente. Poi magari non tutti, anche qualcuno dice speriamo che perda, okay? Perché c'era anche questo ambiente qua. È sempre difficile allenare una squadra nazionale, come sa Recalcati benissimo. Però la persona, io ho parlato con tante persone, cioè noi non volevamo vedere la Nazionale o Recalcati e tutti quanti finire male. Questa è assolutamente la verità sulla situazione, e ne ha parlato con diversi, molti di cui li conosce Charlie perfettamente. Quindi tutti noi speravamo, perché bisogna dire, la Nazionale è la prua della nave. Io sono venuto in Italia perché la Nazionale ha fatto una grande cosa nelle Olimpiadi del 72. Questo è l'unico anno che Charlie non ha giocato. Ha giocato nel 68 Città di Messico, Charlie, poi 76 a Montreal. Però quello lì allenavo il Cile. Uh-huh. E mi ha detto, l'Italia va in semifinale proprio contro gli Stati Uniti. Ho detto, alla Madonna, Italia semifinale. Dopo questo è venuta la richiesta della Virtus, ma la cosa che mi ha captato l'attenzione è stata la Nazionale. Mi deve credere, se non so, io vinco uno scudetto con l'Olimpia Milano, in America lo sanno in tre gatti, ok? L'Italia di Recalcati fa secondo posto nell'Olimpiadi 04 o Gamba nel 80, secondo posto, lo sa il mondo cestistico, e anche tutti, ancora maggior ragione nel 04, lo sanno tutti in America, proprio tutti. Anzi, quando Recalcati e la Nazionale in un'amichevole in Germania hanno battuto gli Stati Uniti di 20 punti, ok, Iverson e compagnia, da 0-4. C'erano i filmati in America, l'ho visto io proprio perché la come si chiama, la codificatore, vedere in America The Italian Job, cioè il job vuol dire che hanno fatto un furto, ma non un furto, non ha detto così, ci erano spazzate via come tiri di Basile, eccetera. Quindi la nazionale ha grande risonanza e tutti noi, anche io devo dire che mi identifico con la nazionale di calcio in Italia, con Lippi e tutti quanti, e le voglio vedere, anche figuriamoci il rugby contro l'All Blacks, tanto per dire. Quindi sono un caso un po' diverso, però sono così. Ecco, tra l'altro il coach ha parlato di come è finita questa avventura. Da questo punto di vista, spero di non andare a toccare dei nervi ancora scoperti, i modi sono stati, insomma, si poteva finire meglio, via, per modi, per tempi, per come è andata tutta questa vicenda. O forse no, come dicevo all'inizio, forse era impossibile per una storia così lunga e con così tanti risultati. Charlie? Bisognerebbe conoscere tutti i tempi. I tempi non sono stati quelli che poi sono stati pubblici e quindi le cose si sono svolte in tempi diversi, in momenti diversi. E, è sembrato, e io mi rendo conto perché volutamente si è lasciato che si credesse, che questo mio attaccamento, questa mia voglia di non lasciare fosse una questione commerciale, no? E invece non era così. La mia voglia di non lasciare era legata al fatto che in definitiva mi era stato rinnovato un contratto non chiedendomi di ottenere dei risultati nell'estate precedente all'entrata in vigore di questo contratto. Ma mi è stato fatto un contratto che prevedeva, a fronte di mancanza di risultati nel futuro, che non potesse continuare. Allora vi svelo questo. Cambia il presidente federale, cambia il consiglio federale. Il mio contratto era stato siglato dal vecchio presidente Maifredi al vecchio consiglio federale. Quello è stato il momento in cui io sono andato da Dino Meneghin e dal nuovo vicepresidente La Guardia e ho rimesso a loro il mio contratto. Ma questo succedeva a marzo, perché in quel momento io ritenevo che era giusto che io dessi loro la possibilità di scegliere l'allenatore, di scegliere una strategia e una programmazione. Non è stato accettato, mi è stato detto no, ma per carità, piena fiducia, anzi, prolunghiamo. E per me le parole valgono, e le parole valgono al di sopra di tutto. Ecco perché poi, senza bisogno di fare tanto clamore o pubblicizzare o dover dire non me ne vado per questo o per quest'altro, però la realtà è questa qua. Io credo che tutte le cose debbano essere fatte, possono essere fatte nei tempi adeguati, sì, e con la tempistica giusta. E se c'è una cosa che non c'è stata in tutta questa situazione è stata la tempistica giusta. Io siamo in ritardo sulla viabilità, però vi chiedo ancora un attimo di pazienza perché volevo chiedere una cosa ancora secca a Coach Peterson prima di salutarlo. Coach, per il futuro adesso, poi interpelliamo anche Charlie Recalcati naturalmente, tutti dicono Pianigiani, tu ieri sera hai commentato Siena per Sport Italia, naturalmente partita, prima sconfitta stagionale per Siena, non so se i discorsi sulla nazionale fossero una testa di Pianigiani, non credo, ti chiedo solo, è lui l'uomo giusto per quella panchina? Guarda, innanzitutto ho anche letto i commenti di Charlie l'altro ieri che anche sul Gazzetta dello Sport Pianigiani scelta giusta e quindi gli ha dato l'appoggio lui. Io penso di sì, cioè uno che ha ottenuto più risultati di lui in Italia non conosco nessuno, okay? Quindi ovviamente però anche Meneghin ha detto se viene Yasmin Repercher ci sono precedenti per allenatori non italiani sulla panchina, Jim McGregor, sì. Addirittura Nello Paratore, che non so se Recalcati sa più di me sulla estrazione etnica del mitico Paratore, okay? Nato in Egitto e tutte quelle cose, però precedenti ce ne sono anche altre nazioni, guardiamo Scariolo che è lei nella Spagna, Blatt che è lei nella Russia, quindi certo. Non avrei assolutamente niente in contrario, ovviamente tutte le cose uguali preferirei un allenatore italiano di grande credibilità con i giocatori. Io penso che Questo ce l'ha Pianeggiani solamente, se non altro per i grandi risultati che ho ottenuto a Siena, cioè ha stabilito dei record, certo, che sono spaventosi. Grazie coach, sentiamo venerdì. Ciao, buon lavoro. Ciao ragazzi. Ciao. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con noi qui in studio c'è Ale Recalcati, 800 24 00 24, e tra poco cominceremo a parlare con gli ascoltatori e non solo. Charlie, allora, eravamo con il coach sull'argomento successione sulla panchina azzurra, la tua investitura a chi va? No, adesso io spero soprattutto che non si cominci a dire che Simone Pianeggiani comincia a scricchiolare perché ha in testa la nazionale, allora si cominciano a fare disegni di questo tipo qua, no? La nazionale lo disturba, gli toglie concentrazione. Io, conoscendo un po' Simone, non credo proprio. No, appunto, tu lo conosco molto allievo, bene, quindi so benissimo che non è così, però sai, è vero che noi italiani siamo specialisti in andare a cercare le cose che non ci sono. Allora io dico l'allenatore italiano, questa è la premessa, senza assolutamente confutare le motivazioni che ha portato Dan Peterson, che sono assolutamente legittime, e soprattutto lo dico avendo grande stima di ciò che Repeša ha fatto in Italia, che ha fatto con la nazionale croata, e che sono sicuro che potrebbe fare con la nazionale italiana o con qualsiasi altra squadra. Se è un bravissimo allenatore non è in discussione, lo sappiamo tutti. Però no, io dico italiano perché credo che un movimento come quello italiano, e soprattutto una federazione che ormai da decenni sta investendo sugli allenatori italiani e chiede agli allenatori italiani di investire su se stessi, e investire vuol dire fare sacrifici, investire denaro, investire tempo. Chiede agli allenatori italiani non solamente di formarsi attraverso dei corsi abbastanza lunghi, perché un allenatore, per diventare allenatore nazionale, ci deve mettere 8 anni. Sì. Quindi deve dedicare 8 anni del suo tempo. All'allenatore viene chiesto poi di continuare ad aggiornarsi, a formarsi. E io credo che gli 8.000 allenatori, perché gli iscritti al CNA sono 14.000, però abbiamo 8.000 allenatori in attività, i quali non tutti loro possono avere la pretesa di allenare la nazionale, non se lo sognano probabilmente neanche molti di loro. Però credo che sarebbe un gran segnale che la federazione darebbe a questi allenatori, nel fatto di dire che uno di loro che ha avuto lo stesso percorso loro possa essere l'allenatore della nazionale. Cioè, come questo, segnale in valore assoluto. Questo è il motivo per cui dico italiano. E quindi italiano, è chiaro che in questo momento l'allenatore che lavora in Italia ed è il migliore di tutti è Simone. È Simone. Per risultati numerici, ma certo, anche per risultati visivi, vedendo come gioca la sua squadra. Poi abbiamo tanti altri ottimi allenatori, giovani come Simone, si è parlato di Sacripanti avrebbe anche l'esperienza che ha maturato con la nazionale Under 20, perché vuol dire che Pino ha la possibilità di conoscere dai 25 anni in giù tutti i giocatori europei che fanno parte delle nazionali, ma poi ce ne sono altri. Dunque, adesso cominciamo a parlare con gli ascoltatori, poi abbiamo anche delle domande che arrivano dal mondo del basket per Charlie Recalcati. Massimo da Milano, buongiorno. Sì, pronto? Pronto, dica. Sì, buongiorno, io volevo salutare Recalcati perché andavamo a scuola assieme alla Paolo Frisi alla fine degli anni 60 e abbiamo fatto anche una staffetta e siamo arrivati primi. Mi ricordo che quando lui era giovane andava ad allenarsi alla Pavoni Artigianelli e per via di questo nome i compagni di scuola lo prendevano in giro, ed è arrivato dove è arrivato. Volevo fargli ancora i complimenti. Una carambata, cioè. Grazie, sì, no, è il giorno delle carambate. Sono passato proprio ieri davanti alla scuola Paolo Frisi, perché ieri ero in Gazzetta, la scuola Paolo Frisi era in via Solferino, quindi proprio ieri ci sono passato davanti, quindi Quindi hai vinto anche una staffetta io pensavo di essere solo scudetti. Pensavo di essere solo un giocatore di basket, non un atleta. Invece abbiamo vinto anche una staffetta. quando era giovane, però è un po' ingeneroso. Quando era giovane è un po' ingeneroso, in effetti. Senti, invece abbiamo preparato, oltre alle domande degli ascoltatori, alle carambate che valgono sempre 800 24 00 24, una serie di approfittando della presenza di Charlie, una serie di post-it dal mondo del basket, come se fosse una conferenza stampa pubblica o come se fosse un pubblico dibattito che ovviamente ha un unico fine, cioè quello di risollevare la nazionale. Allora abbiamo raccolto in giro da colleghi un po' di domande da girare a Charlie Recalcati. Partiamo dalla domanda, proprio, visto che eravamo in Gazzetta ieri, Luca Chiobotti, inviato la Gazzetta. Sentiamo cosa ti chiede. Volevo sapere da Carlo Recalcati se quando guarda delle partite dei nostri ragazzi nella NBA o legge i giornali, non gli viene un pochino di rabbia per le condizioni nelle quali spesso si sono presentati ai raduni azzurri, e se pensa che il suo successore potrà avere qualcosa in più da loro? Ma quando vedo giocare Marco Bellinelli, sicuramente mi ricordo il primo giorno del raduno a Bormio, quando si presentò abbastanza inciccionito. E quindi il fatto che adesso sia in perfetta forma non mi rammarica, se non altro penso che la nazionale dal punto di vista individuale gli ha fatto bene. Ma io ho pensiero invece che riguarda in assoluto i giocatori europei che giocano nell'NBA. Non so se è questo il momento per dirlo, ma mi riallaccio un pochino, ne approfitto perché si è parlato di NBA e porto ad esempio un giocatore che non è italiano, così almeno nessuno si offende, nessuno se ne ha male, ma parlo di un giocatore vincente in Europa che è andato nell'NBA e non è stato capace di essere vincente nell'NBA e di riflesso non lo è più stato con la propria nazionale. Parlo di Marko Jaric. Marko Jaric era un giocatore della Fortitudo, e quando io andai alla Fortitudo, tanto per dire il carattere vincente di questo ragazzo, mi telefonò da Los Angeles e mi disse: coach, sono Marko Jaric, ho saputo da un amico di Bologna che vuoi portare Katash alla Fortitudo. Sappi che io, se non lo sono adesso, diventerò il miglior playmaker d'Europa. Volevo dirti solamente questo. Poi le cose andarono che sostanzialmente la Fortitudo non prese Katash. Effettivamente Marco giocò una grande stagione dividendosi il ruolo di playmaker assieme a Basile, vincemmo il campionato. L'anno dopo lui andò in Virtus, fu uno dei protagonisti del grande slam della Virtus, diventò playmaker della nazionale serba, vinse i mondiali di Indianapolis 2002 con la Serbia, poi andò nell'NBA e andò a giocare ai Los Angeles Clippers. Poi giocò a Minnesota, poi giocò a Memphis, squadre che non hanno mai fatto i playoff. In effetti da lì. La nazionale serba da 2002 non ha più ottenuto i risultati. Marko Jaric non è stato più capace di essere un giocatore capace di trascinare la propria nazionale a vincere. Questo per dire cosa? Che più che le prestazioni individuali, la cosa importante è che i nostri giocatori giochino in squadre vincenti, e se non giocano in squadre vincenti abbiano la capacità e la forza di farle diventare vincenti, e solo in quel momento lì anche la nostra nazionale sarà vincente. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre qui con noi Carlo Recalcati, 800 24 00 24 per i vostri interventi. Abbiamo sentito la domanda rivolta al coach da Luca Chiabotti. Adesso sentiamo invece cosa ha da chiedere a Carlo Recalcati Paolo Ellis da Sky. Sei stato sia allenatore part-time che full-time della nazionale italiana. Secondo te è così fondamentale che un CT dedichi tutto il proprio tempo alla nazionale, o si può fare come potrebbe fare per esempio Pianigiani, l'allenatore di un club, ed essere comunque un buon CT per la nazionale? Domanda molto pertinente, Charlie. No, assolutamente si può fare. Di stretta attualità. Nessuno vuole dire che non lo si può fare. Io l'ho fatto per 3 anni e penso di essere riuscito a farlo nelle migliori condizioni possibili. La condizione è che ci sia sia dall'una che dall'altra parte, quindi club e federazione, un'ottima organizzazione, proprio perché se vuoi fare il part time, ai 3 anni in cui ho avuto la possibilità di farlo, è perché avevo la massima tranquillità interiore che nel momento in cui pensavo a Siena, sapevo che in federazione c'era chi portava avanti una programmazione che avevamo fatto assieme, che io nel momento in cui avessi staccato da Siena avrei trovato tutte le cose predisposte e fatte a puntino. E la stessa cosa valeva nel momento in cui ero via con la nazionale, sapevo che a Siena c'era innanzitutto uno staff, e guarda caso a capo di quello staff nel momento in cui io non c'era, c'era Simone Pianigiani, che mi garantiva il lavoro dal punto di vista tecnico, ma soprattutto c'era una società in grado di poter pensare a tutto e quindi di permettermi di stare lontano anche con la testa e di poter rientrare e rimettermi subito al lavoro trovando il lavoro predisposto, fatto e quasi finito. Quindi questo è possibile farlo. I presupposti sono appunto che ci sia nelle due realtà un'organizzazione perfetta, e quindi questo è un presupposto. Questa è la condizione sine qua non. È chiaro che la federazione, più che la nazionale, a mio avviso, ha bisogno e avrebbe bisogno di avere un allenatore a tempo pieno, perché deve avere un allenatore che, girando l'Italia per vedere, per visionare, per tenere contatti, per parlare, per incontrare giocatori, debba essere il biglietto da visita della federazione. Questo chiaramente, facendo un discorso part time, non sarebbe possibile farlo. La situazione mia era diversa quando feci il part time, perché io assunsi il part time arrivando da allenatore della nazionale. Sì. E quindi ero visto come l'allenatore della nazionale che veniva in qualche modo prestato a prendere. Adesso è una situazione diversa. Adesso è una situazione dove invece è un allenatore di club che poi diventa anche allenatore della nazionale. Dunque, adesso rapidamente un paio di ascoltatori: Gabriele da Roma e Carlo da Napoli. Mi raccomando, sintesi negli interventi, così almeno riusciamo a parlare in tanti. Gabriele, buonasera. Sì, buongiorno a tutti e salve Mr. Charlie. Sarò brevissimo come richiesto. Volevo sapere, dalla sua esperienza, come si fa, adesso mi riferisco alla squadra di Roma, la Virtus, che dona alla nazionale, e uso questo termine non a caso, 6 o 7 giocatori italiani. Come si fa a mantenere un equilibrio tra il gruppo, in una squadra di club si intende, tra il gruppo degli americani, usualmente sono loro i più presenti, sì, e appunto gli italiani? Da noi, come avrete sentito, avrete visto, abbiamo delle difficoltà non di tipo caratteriale ma proprio di tipo di gioco. Una cosa fanno gli americani, un'altra cosa fanno gli italiani. Grazie a lei. Sì, io credo che si è parlato molto di questa politica di Roma, e secondo me in modo anche un pochino errato. Perché si è voluto enfatizzare, probabilmente perché era giusto che fosse così, perché anche la stampa ha bisogno di avere argomenti da poter portare avanti e da poter puntualizzare. E la politica di Roma non è una politica dove ha disdegnato il giocatore straniero, è comunque una squadra che, come tutte, la stragrande maggioranza delle squadre del nostro campionato, hanno puntato su un nucleo di ottimi giocatori stranieri, e il gruppo degli italiani dovrebbe essere il valore aggiunto, perché rispetto alle altre squadre, a fronte magari di un buon gruppo di giocatori stranieri, Roma ha la possibilità di inserire un gruppo di buoni giocatori italiani, e soprattutto di giocatori che si conoscono tra di loro, che hanno già giocato parecchio tempo tra di loro e che quindi possono dare il loro contributo. È evidente che con più sale la qualità dei giocatori, con più è necessario che ci sia compatibilità tra di loro e che quindi si crei sintonia all'interno della squadra. Probabilmente ci vuole ancora un po' di tempo. Carlo, Napoli. Ma innanzitutto grazie per l'ospitalità. Io chiamo da altri osservatori, che sono l'osservatorio calcistico, eccetera. Sì. Ma volevo chiedere a Recalcati che in ogni caso è portavoce di uno sport in cui il razzismo è assolutamente fuori luogo, perché in ogni caso il basket è uno sport che nasce quasi proprio per sua natura. Sì. E consigli potrebbe dare alla quelli che del calcio praticamente, perché queste cose così brutte, riprovevoli relativamente al razzismo non succedono più. Sopra l'esperienza del basket. Sì, Carlo, la domanda è interessante, anche se qui io farei, ma così per inciso, un distinguo. Secondo me stiamo chiaramente parlando di fare nome e cognome della vicenda di Balotelli. Io però penso che in questa vicenda, poi dopodomani per parlarne senza problemi. Credo che questa vicenda le uniche cose fondate le abbia dette Marcello Lippi, cioè una vicenda che nulla c'entra con il razzismo. Tanto per tagliare la testa al toro, che poi esistano dei problemi di questo tipo lo sappiamo, in questo caso io mi sentirei di escluderlo, cioè il razzismo nella vicenda Balotelli secondo me non c'entra niente. Detto questo passo la palla. Sì, no, sono assolutamente d'accordo, credo che sia invece una presa di posizione nei confronti di un giocatore avversario, come esatto. Spesso si prende una posizione. La cosa probabilmente ha fatto ancora più scalpore perché i cori ci sono stati nel momento in cui il giocatore e la sua squadra non erano presenti, quindi questa è la cosa che fa un pochino più scalpore, però direi sì che effettivamente i cori rivolti a Balotelli fossero legati esclusivamente a un avversario e non al colore della pelle. Ma hai trovato problemi razziali in campo, Charlie, nella tua esperienza? No, nella mia esperienza devo dire no. Io né tra giocatori né nel rapporto con i tifosi direi proprio di no. Dunque adesso Flavio, vuoi chiedere qualcosa al coach prima di sentire un'altra domanda che arriva? No, sentiamo la domanda, poi mi riallaccio dopo a questa. E allora domanda. Vuoi sentire cosa ti chiede Stefano Valenti di Superbasket? Sentiamo. La mia domanda per Ricalcati è questa, e cioè se all'indomani della sconfitta di Po fondamentalmente non si sono persi 2 mesi e mezzo di tempo, 2 mesi e mezzo in cui la fine del rapporto poteva sembrare lecita o quantomeno possibile, e 2 mesi e mezzo in cui ovviamente c'erano state polemiche, la federazione ha avuto una buona immagine nel suo nuovo corso, e 2 mesi e mezzo in cui anche il lavoro di Carlo Recalcati è finito per essere svilito, nonostante abbia portato il miglior risultato di sempre come giudico, la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Ritengo che Stefano abbia fatto questa domanda prima che io intervenissi in radio questa mattina. Sì, no, la tempistica, dovrei ripetermi su quello quanto ho già detto sulla tempistica e sul fatto del perché, ecco, la risposta è il perché dopo Po non c'è stata questa accelerazione nel risolvere una situazione, perché era una situazione appunto, come dicevo prima, che arrivava da marzo e che quindi c'erano delle cose che si erano sviluppate a marzo e da lì hanno fatto sì che si arrivasse. Allora ne approfitto io e ti chiedo questo. Si è parlato chiaramente anche di qualche difficoltà interna a livello di spogliatoio, insomma. È chiaro che quando le cose vanno male poi si dice tutto e il contrario di tutto. La mia domanda è questa, può essere magari un po' anche difficile, ma non vuole essere assolutamente provocatoria, ci mancherebbe. Quanto è stato difficile lavorare nell'ultimo periodo sapendo le condizioni che c'erano anche a livello di gruppo e poi soprattutto con questa spada di Damocle dei risultati? Cioè tu hai qualcosa da imputare magari a qualche tuo giocatore? Ma guarda, io ti devo dire una cosa, che se per problemi spogliatoio si intendono rapporti tra i giocatori, direi proprio di no. Cioè è stato un gruppo che ha lavorato, che è stato direi abbastanza bene assieme, non ha raggiunto la compattezza del gruppo dell'estate precedente, dove era un gruppo direi sicuramente più modesto dal punto di vista delle qualità tecniche e quindi per forza di cose un pochino più compatto, perché poi è chiaro che con più si eleva la qualità, con più è più difficile magari riuscire a trovare comunità di intenti, però devo dire che siamo sicuramente stati nella media. Se si intende il fatto che io abbia dovuto intervenire più del solito o più di quello che ero abituato e sono abituato a fare nei confronti della squadra dei giocatori, questo sì è vero, però fa parte del lavoro che un allenatore deve essere in grado di fare e deve avere la capacità di sapere se con un gruppo bisogna intervenire anche aspramente e duramente più che in altre occasioni, però ecco, direi tutto abbastanza nella logica del lavoro. Sì, ma tu un anno fa circa sempre ci sei venuto a trovare, hai detto dopo l'estate difficile che abbiamo vissuto, niente da rimproverare al gruppo di giocatori che ha vissuto con me questa estate difficile. Palla spicchi. Allora Charlie, abbiamo lasciato una domanda in sospeso. Sì, sì, non ho nessuna difficoltà nel ribadire che il gruppo dell'estate 2008 io lo avevo paragonato al gruppo 2003 e non ho nessuna difficoltà a ribadirlo, e non ho nessuna difficoltà a dire che il gruppo 2009 non aveva la stessa compattezza di quello. Certo. Quindi, credo di non dire niente di strano. Saluto Flavio Tranquillo, ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senti, visto che siamo in sede di interrogatorio, ti cedo testimone. Poi ci sarà anche una sentenza. Poi c'è la sentenza. Ciao Flavio. Veramente. Ciao Carlo. Ma il testimone per dire qualcosa a Carlo, sì, ovviamente ci vorrebbe più tempo per riuscire a entrare bene, però ho sentito l'ultimo pezzo quando parla di compattezza, credo che adesso ci possa essere meno problemi, visto che ormai sei un po' distaccato dalla cosa, a chiedere se la minor compattezza è dovuta a un minor, come posso dire, senso della professionalità da parte di alcuni giocatori o semplicemente perché non c'era una grande chimica umana o tecnica tra i componenti del gruppo. Quanto pesa la prima cosa e quanto eventualmente la seconda? Ma direi che ha pesato di più la prima cosa, perché debba essere in assoluto una critica, ma perché effettivamente c'è una diversa abitudine adesso nell'interpretare la professione del giocatore, semplicemente questo. Posso farti una seconda domanda? Ti ho visto giocare, ma eri bambino, anche se molto difficile. Secondo te, se tu fossi adesso, dico Belinelli senza voler assolutamente prefigurare che Belinelli sia uno eventualmente di quelli che si è macchiato di questo minor senso di professionalità, ma diciamo che come ruolo e come mano potresti essere un Belinelli, se tu fossi Belinelli oggi, per quello che è il valore culturale della nazionale oggi, avresti lo stesso amore per la maglia azzurra? Ti sentiresti di dire che saresti in grado di avere lo stesso amore che avevi nel 60-70, oppure è proprio un po' cambiata la percezione culturale di quella che era nazionale? No, è cambiata assolutamente, ma non perché con delle motivazioni ben precise, cioè voglio dire, i tempi sono effettivamente diversi. Io no, guarda, da questo punto di vista qua non mi sento, non sono mai stato, non sarò mai uno che dirà ai miei tempi era così, era cos'ha. Sono considerazioni e valutazioni diverse, tu hai ragione, voglio dire, difficilmente mi hai visto giocare perché tu eri veramente bambino e io sono veramente molto vecchio, e quindi figurarsi, le generazioni adesso si bruciano nel giro di 3-4 anni, e fare un paragone tra quello che potevano essere i sentimenti di allora e quelli che sono da adesso sarebbe ingeneroso, ma semplicemente perché è cambiato totalmente il modo di essere, la cultura, le abitudini e il modo di valutare le cose. Quindi non ci può essere assolutamente nessun tipo di critica nel dire era meglio ieri piuttosto che oggi. Non sono sicuramente su questa lunghezza d'onda, credo che ogni cosa vada valutata e vissuta per il periodo in cui si è avuto, e quando io ero giovane, ero giocatore, probabilmente era giusto che fosse così e che noi eravamo fatti in quel modo. Oggi come oggi è giusto che i ragazzi d'oggi siano fatti come sono fatti. Io adesso darei spazio rapidissimo a due ascoltatori, due domande secche. Francesco da Modena e Tino dalla provincia di Ravenna. Francesco, buongiorno. In realtà più che una domanda voleva essere un saluto a Carlo Recalcati, con cui ho scritto 10 anni fa la sua autobiografia. Non ho resistito, sentendolo a palla spicchi, a chiamare per salutarlo, insomma, perché non potevo veramente resistere. Ciao Francesco, è un piacere risentirti dopo tanto tempo. Guarda, purtroppo ho lasciato la pallacanestro per dedicarmi all'economia. Temo di aver fatto peggio, visto come va in questi ultimi 2 anni di crisi. Guarda, sai che tu mi vieni in mente spessissimo, Spessissimo, perché delle cose che io mi raccontavo, la cosa mi aveva particolarmente colpito, che ogni volta che io raccontavo delle cose, tu dopo, so, quando poi dopo ti mettevi a scriverle e mi telefonavi, dicevi: ma tu vorresti dire veramente queste cose, ma forse non è il caso. Lavora quattro ore. È un grande piacere lavorare con te, Carlo. Grazie. Una delle esperienze più belle che mi è mai capitato di fare. Grazie, è stata una cosa reciproca. Tutti i tuoi amici, chiamati tutti i tuoi amici, hai visto? Tino, provincia di Ravenna, un altro tuo amico. Buongiorno a tutti, velocissimo. D'accordo. Bravo. Con Coach Recalcati sull'allenatore della nazionale a tempo pieno, perché sì, fare due cose così impegnative assieme potrebbe risultare problematico. Domanda provocatoria: secondo voi Bargnani, Bellinelli, Gallinari non sono stati troppo sopravvalutati per il gioco dell'NBA americano, e quindi non a caso Bargnani e Bellinelli giocano in una squadra con un'ossatura europea e non a caso c'è Ghirardini alle spalle. Da New York c'è D'Antoni che vabbè, mi ascolto per radio. Più che vabbè, New York è New York. Va male. No, no, io sono assolutamente convinto e strasicuro che i nostri giocatori valgano l'NBA. E quindi ci stanno benissimo. Come ho detto in precedenza, il mio augurio è che possano, con le loro qualità, riuscire a far diventare vincenti la loro franchigia. Però qui volevo, appunto la risposta che hai dato prima, volevo sentire l'opinione di Flavio Tranquillo, no? Perché prima Flavio il coach diceva, insomma, va bene giocare nell'NBA, però o giochi in una squadra vincente o devi provare a far diventare vincente la tua squadra se vuoi essere un giocatore anche utile alla nazionale. Questo era il pensiero di Recalcati. Come la pensi tu invece? Sai che il terreno mi appassiona tantissimo, sai che ovviamente è un discorso complesso, credo, nel senso che è pieno di sfaccettature, credo che basti avere degli occhi per capire che questi sono giocatori con potenziale da NBA, ovvero sia per giocare ad altissimo livello, che sia l'NBA, che sia l'Eurolega, tipo quella che abbiamo visto ieri a Siena, non fa necessariamente tutta questa differenza, hanno potenziale da alto livello, non sono ancora compiuti nella maniera più assoluta, e quando dico non sono ancora compiuti mi viene anche in mente che tutti noi sbagliamo nel valutarli troppo per quanti punti fanno e con quanta percentuale tirano, e nel valutarli poco per come giocano, e io credo che bisognerebbe tutti riuscire a fare uno sforzo per andare oltre queste cose e riuscire a trasmettere a questa generazione, per esempio, sempre non si può fare di ogni erba un fascio, ma prendo un giocatore, noi abbiamo in questo momento un giocatore che ha un istinto per il canestro direi alla Carlo Recalcati in Italia, si chiama Pietro Aradori. Se non accoppia a quell'istinto per il canestro e alla capacità di fare dei punti tutto quello che un po' Danilo Gallinari ha innato, gli altri due onestamente meno, anche se Bellinelli ce l'aveva innato a una certa età e poi l'ha un po' perso per strada, se si offendono per questo tipo di critica, secondo me perdono l'occasione della vita. Perché io sono convinto che questo gruppo come talento abbia molto, ma molto, ma molto più talento in una metà campo di quello del 2003. Il sì, problema è riuscire a metterlo assieme, poi a quel punto, secondo me, quando capiranno tutto questo, allora diventerà più facile allenarli, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie Flavio. A voi. Ciao Flavio. Sentiamo domenica sera. Con Cesare Calcati invece ci sentiamo tra poco, quando tornerà nella mischia dei club. Torni da allenatore dei club la prossima volta. Quando? Non lo so. In questo momento sto molto bene così. Sì, che dura pochissimo. Per quanti giorni? Dura pochissimo. Grazie Charlie. Per questo momento. Grazie Charlie, grazie davvero. Grazie a Flavio Suardi, grazie a Franco Piantanida in redazione, a Carmelo Lauricella in regia. Con lo sport torniamo domani pomeriggio dalle 5 alle 6. A domani.